o un algoritmo che ci consiglia una serie TV, è diventata il generale invisibile dietro le linee di confine e nelle zone di guerra. In questa puntata andremo a scavare nell'infrastruttura profonda di questo potere. Non parleremo solo di software, ma di chi possiede i cavi, i server e la logica estrattiva che trasforma il dolore umano in materia prima per il machine learning. Succede a Gaza, succede in Iran, succede al confine tra Stati Uniti e Messico. Benvenuti e benvenute nel cuore della filiera della morte. Sono Fabrizio C, questo è Piede Sinistro, cominciare dal lato giusto. Quarta puntata del Codice Nero. Le Big Tech, Google, Amazon, Microsoft, Palantir, non sono più semplici aziende. Sono diventate attori geopolitici a tutti gli effetti. Hanno occupato uno spazio che un tempo apparteneva esclusivamente agli stati, la sovranità sulle infrastrutture strategiche. Se un tempo il potere si misurava in capacità militare, oggi si misura in capacità di calcolo e possesso dei dati. Pensate al progetto Nimbus. Un contratto da 1,2 miliardi di dollari con cui Google e Amazon forniscono l'infrastruttura cloud al governo e all'esercito di Israele. Qui non parliamo di semplici servizi email o database per l'anagrafe, parliamo della spina dorsale tecnologica che permette a sistemi come Lavender di funzionare. Meta ha utilizzato i dati di WhatsApp e li ha messi al servizio delle forze d'occupazione israeliane per addestrare Lavender, che è la loro macchina, l'intelligenza artificiale che hanno iniziato all'inizio dell'invasione, hanno usato all'inizio dell'invasione per scegliere i bersagli. Google e Amazon hanno fatto il famoso Project Nimbus, un grosso progetto in collaborazione con le forze di occupazione israeliane, con l'obiettivo di monetizzare la guerra, di monetizzare il genocidio. Qua non si parla quasi neanche di, cioè sì, stiamo parlando di piattaforme, ma questa è una emanazione, è la realtà, ancora una volta, del capitalismo. Non c'è il fatto che siamo nella dimensione digitale, da un lato ce lo rende un po' nuovo, quantomeno nelle forme e nelle modalità, ma il concetto è esattamente lo stesso che abbiamo visto in tutti questi, in questi secoli di capitalismo. Lavender è un'intelligenza artificiale che, durante l'offensiva a Gaza, ha identificato migliaia di obiettivi umani con un margine d'errore accettato dai comandanti. L'intelligenza artificiale decide, l'umano convalida in pochi secondi, ma in quei pochi secondi la responsabilità politica ed etica evapora nel codice. Come spiega Fabio Chiusi, la tecnologia diventa uno scudo. Se l'errore è algoritmico, nessuno è colpevole. È stata la macchina, dicono. Ma dietro quell'algoritmo ci sono scelte umane ben precise, pregiudizi scritti in linguaggio di programmazione e, soprattutto, una fame insaziabile di dati. Perché le big tech hanno così bisogno della guerra? La risposta è cinica, perché la guerra è la più grande miniera di dati nel mondo, oltre ad essere motivo per enormi finanziamenti da parte degli stati sempre più interessati al riarmamento. Per addestrare un'intelligenza artificiale a riconoscere un bersaglio, a prevedere un movimento o a gestire una deportazione di massa, serve materia prima. E la materia prima, in questo caso, è il comportamento umano in situazioni limite. Siamo di fronte a un nuovo estrattivismo. Un tempo si estraeva carbone o ferro per alimentare le macchine, oggi si estraggono pattern di vita e di morte per alimentare gli algoritmi. Come evidenziato da Fabio Chiusi, le zone di confine, come le zone di guerra, sono diventati laboratori a cielo aperto. Cioè, una volta che uno adotta delle tecnologie, questo lo vediamo nelle pubbliche amministrazioni, anche per cose molto meno sofisticate dell'AI, no? Una volta che uno adotta, che ne so, il cloud di Microsoft o di Amazon per un'istituzione pubblica, poi è molto difficile, no, liberarsene una volta che uno decidesse di fare un'evoluzione. E questo sta succedendo ai nostri confini, quindi ai confini europei, ai confini americani, ai confini di gran parte del mondo si trovano le soluzioni automatizzate o meno, comunque sempre più sofisticate, di un pugno di aziende che sono più o meno sempre le stesse. E questo fa sì naturalmente che si definisca per dipendere da queste aziende. Quindi il primo modo, diciamo, per disarticolare questo meccanismo è cominciare a mettere in questione le visioni che queste aziende propongono, le soluzioni che cercano di realizzare queste visioni, naturalmente, che sono esattamente quello che a loro interessa, e quindi incominciare a ragionare noi invece da un punto di vista politico. Quindi, Questo libro parla di tecnologie, diciamo, ma ne parla come risultato, come epifenomeno di una visione politica, è una visione, diciamo, securitaria, no? Reazionaria, un tempo avremmo detto, e sicuramente che, come si vede, prova fastidio verso, diciamo, la tradizione del diritto internazionale, dei diritti umani. Non stupisce vedendo quello che sta succedendo a livello geopolitico in questi mesi, naturalmente, ma nelle migrazioni si vede da molto tempo. Qui aziende come Anduril testano torri di sorveglianza autonome e droni meccanici che Cheobit definisce giocattolini di morte. Questi strumenti vengono presentati al pubblico come soluzioni per salvare vite o per rendere i confini più sicuri, ma la loro vera funzione è raffinare algoritmi che verranno poi venduti al miglior offerente. Anduril, che insieme a Palantir lavora al software del Golden Dome, lo scudo antimissile a stelle e strisce da 185 miliardi di dollari. È il concetto di dual use, la stessa tecnologia che traccia un migrante nel canale della Manica viene usata per guidare un missile in un teatro di guerra. Il profitto non è solo nel contratto di vendita multimilionario, il vero tesoro è nel dato estratto, quel bit di informazione che rende il software di domani ancora più letale di quello di oggi. Ma c'è un altro pericolo che emerge prepotentemente, la dipendenza tecnologica. Quando uno Stato affida la propria difesa e i propri dati tendenziali al cloud di un'azienda privata, sta firmando un atto di vassallaggio. È il tecnofeudalismo applicato alla geopolitica mondiale. Se Palantir o Microsoft decidessero domani mattina di interrompere il servizio per ragioni politiche o commerciali, interi apparati militari e civili finirebbero al buio. Lo Stato sovrano diventa quindi un inquilino nel server di un miliardario. Personaggi come Alex Karp, il CEO di Palantir, non nascondono più le loro ambizioni. Nel suo manifesto sulla Repubblica Tecnologica, Karp chiama esplicitamente la Silicon Valley alle armi. Dice che bisogna smettere di produrre gadget per distrarsi e iniziare a costruire il braccio armato dell'Occidente. Ma dovremmo chiederci quale Occidente? Un Occidente in cui il potere non risiede più nelle istituzioni democratiche o nel voto dei cittadini, ma nei consigli d'amministrazione delle big tech? Le risposte dell'intelligenza artificiale sembrano credibili perché confermano i nostri pregiudizi. L'idea che la sicurezza sia a controllo totale, che l'altro sia, ad esempio, una minaccia da categorizzare e che il confine sia un mercato da privatizzare. Le macchine non creano odio dal nulla, trasformano in codice l'odio e la paura che già esistono, rendendoli efficienti, puliti e soprattutto spaventosamente veloci. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio nel cuore della guerra al tempo dell'intelligenza artificiale. C'è un'immagine che Alessandro Arduino usa spesso nei suoi lavori che dovrebbe farci perdere il sonno. La guerra sta diventando un prodotto off the shelf, qualcosa che si può comprare sullo scaffale, come un software qualsiasi. Dimenticate i vecchi scenari da guerra fredda. Arduino ci avverte che l'intelligenza artificiale non sta solo automatizzando le armi, sta democratizzando il caos. Oggi un gruppo di mercenari o una milizia privata non ha più bisogno di migliaia di uomini, ha bisogno di un buon algoritmo e di uno sciame di droni a basso costo. Il punto centrale della sua analisi nel libro La guerra è cambiata è agghiacciante. Stiamo passando dai contractor in carne ed ossa ai mercenari digitali. L'intelligenza artificiale permette di combattere guerre low cost ma ad altissimo impatto, dove chi preme il grilletto è invisibile e soprattutto non ha responsabilità politica. Come sottolinea appunto Arduino, il rischio è che l'intelligenza artificiale diventi il moltiplicatore di forza definitivo per chiunque abbia abbastanza soldi per affittarla. Non è più una questione di chi ha ragione, ma di chi ha il software più veloce. La guerra si trasforma in un business asimmetrico dove la tecnologia non serve a portare ordine, ma a rendere il conflitto permanente, fluido e privatizzato. In questo scenario, la domanda non è più cosa farà l'AI in guerra, ma chi sarà il proprietario dell'algoritmo che deciderà la nostra fine. Abbiamo visto come i signori delle big tech abbiano trasformato il mondo in una infrastruttura di sorveglianza e profitto. Abbiamo visto come la responsabilità umana rischia di scomparire dietro lo schermo di un terminale. Ma c'è una fessura in quella fortezza di dati. La consapevolezza che questi sistemi non sono inevitabili, non sono una forza della natura o un destino manifesto, sono scelte politiche, economiche e materiali. Nella prossima puntata andremo a vedere come gli stati nazionali si blindano grazie all'intelligenza artificiale e che grazie. Nella prossima puntata andremo a vedere come gli stati nazionali si blindano grazie all'intelligenza artificiale che agisce da super poliziotto alle frontiere. Frontiere che si spostano sempre più dai paesi di arrivo a quelli di partenza, creando un muro invisibile fatto di pixel e sensori. Questo era Piede Sinistro, cominciare dal lato giusto. A domani!